scoccata da poco la mezzanotte e quindi siamo già nella giornata di mercoledì 25 settembre 2024. Poco fa una trasmissione rievocativa della Rai mi ha sbloccato un ricordo che è quello dell'apparizione della TV a colori nella televisione pubblica italiana nel 76, anche con un certo ritardo. E nel mio delirio passatista, mentre i suoni che sentite, perché sto entrando in macchina, devo fare una piccola commissione. Nel mio delirio passatista, che mi ricolloca regolarmente in quegli anni, che ormai nella mia memoria è come se occupassero più della metà di tutti gli anni che ho vissuto, l'arrivo della TV a colori fu epocale. È vero che mi occupo di media, però insomma, già quando avevo 10-11 anni, questi erano avvenimenti che davano un segnale importante nella mia vita. E ricordo che noi non avevamo una televisione a colori nel 76, ma alcuni amici ne avevano una e già da un paio d'anni si potevano vedere immagini a colori che arrivavano da altri paesi, per esempio dalla Francia. In Italia si riusciva abbastanza tranquillamente a ricevere il secondo canale pubblico francese, che ai tempi si chiamava Antenne 2, e quindi si potevano vedere questi programmi bellissimi come Dimanche Martin o Un sur cinq, il mercoledì. E poi la televisione che arrivava dall'Istria, quindi TV Coperca Podistria in italiano, e la televisione svizzera italiana. E quindi eravamo in qualche modo esposti a cose tipo il campionato jugoslavo, il campionato svizzero, anche di hockey su ghiaccio. Poi c'era Tele Monte Carlo. Insomma, le TV estere facevano arrivare la TV a colori. Quando arrivò la Rai sembrò arrivare praticamente per ultima. Quello che non molti sanno è che c'erano dei bei risvolti politici dietro il nostro ritardo. E secondo le ricostruzioni della Rai, ma anche insomma di importanti mass mediologi come per esempio Aldo Grasso, che è più un critico televisivo, me ne rendo conto, però insomma una voce comunque autorevole, il motivo del ritardo, scusate, devo mettere la cintura. Fu in origine l'opposizione di due partiti. Beh, diciamo, per cominciare il Partito Repubblicano, che era ai tempi guidato da Ugo La Malfa, il quale era convinto che in anni di grande crisi economica, ci eravamo appena lasciati alle spalle la crisi petrolifera del 73, i giorni dell'austerity e tutto quello che ne conseguì, era abbastanza impensabile che gli italiani dessero fondo ai propri risparmi per procurarsi costosi apparecchi televisivi a colori. Diciamo che fu un po' l'apripista. Insomma, i repubblicani non erano poi così importanti nell'arco parlamentare, però i comunisti andarono dietro a questo discorso, che in qualche modo evocava i valori dell'austerità tanto cari al PC di allora. E quindi chiaramente con a bordo il PC fu abbastanza difficile poi far fare strada alla TV a colori. Da un lato fu un problema perché arrivammo tardi, no? In Inghilterra arrivò nel 67, la TV a colori in Germania è più o meno di lì a poco, la Francia aveva il suo standard, no? I francesi andavano sempre un po' per conto loro, anche per segnalare un'eccezione culturale e strategica, avevano il loro nucleare, facevano parte del patto atlantico ma non della NATO, e insomma scelsero alla fine lo standard che avevano anche i russi. Affascinante questo fatto, scelsero il SECAM, che era un buono standard, ma non buono come il PAL, inventato in Germania e poi, insomma, scelto alla fine anche da noi italiani. Devo dire, fu una buona idea. Come spesso succede, quando si arriva per ultimi si impara dagli errori altrui. Non tanto dell'errore dei francesi, ma c'era ancora persino il rischio di scegliere lo sciagurato sistema americano, la NTSC, che ai tempi obiettivamente era un po' insomma molto arretrato dal punto di vista tecnologico, e solo faticosamente nel tempo riuscirono a renderlo decente. E io ricordo che a un certo punto decidemmo di comprare la TV a colori, che era una televisione, se non sbaglio, Fonola. Nel frattempo quasi tutte le case che producevano televisori in Italia erano fallite, proprio perché appunto erano stati fatti investimenti e per 2-3 anni non fu dato il via alla TV a colori. Quindi praticamente tutti i modelli in commercio erano o tedeschi o inglesi o olandesi, come il Fonola, che era una sottomarca della Philips. E diciamo che l'industria italiana non uscì benissimo, l'industria elettronica, e quindi poi ci ritrovammo all'improvviso con questo cambiamento che andava di pari passo con questa TV finalmente un po' più sbarazzina, successiva alla riforma del 75, con trasmissioni finalmente innovative, e nel frattempo il paese che cambiava, gli anni di piombo. Insomma, in pochi anni cambiò tutto, anche un po' il nostro modo di vedere le cose. E questo per me fu la TV a colori, cioè non tanto una innovazione tecnologica, ma un modo diverso di vedere le cose, non necessariamente migliore.